amore o grillo dir non saprei, certo costei, ma qual ingenue art innescato, lieve qual tenue vetro soffiato, alla statura, al portamento, sembra figura da paravento, ma non so lucido fondo di lacca, come consumito moto si stacca, per far valle. Giorno in cui mi sposerò con le vere nozze.